Immagina di aver fatto un pagamento online tramite il sito della tua banca. Tutto a posto, adesso ti metti soltanto lì tranquillo ad aspettare la merce che dovrebbe arrivarti fra 3 giorni. Ma dopo 4 giorni ti telefona l'azienda presso cui avevi fatto l'ordine e ti dice che il pagamento non gli è arrivato, qualcosa evidentemente è andato storto. Allora vai sul sito della tua banca e verifichi che effettivamente il tuo bonifico è rimasto lì congelato e il sito ti dice che per risolvere devi chiamare il servizio clienti. In che modo ti approccerai a questa telefonata? Ok, ferma tutto, questo è l'inizio di un esercizio proposto da Gay Winch se vuoi diventare un vero Jedi dell'empatia. L'empatia è definita come la capacità di capire, di entrare nello stato d'animo altrui, che si tratti di gioia o che si tratti di dolore. In poche parole, la capacità di metterti nei panni dell'altro. In questo caso i panni sono quelli dell'operatore telefonico del servizio clienti della tua banca. E i tuoi panni invece come sono? Sei incavolato nero, sei nervoso, sei arrabbiato, sei teso, ti appresti con questo stato d'animo a fare quella telefonata. La persona che ti risponderà al telefono invece in quale stato d'animo sarà? A questo punto occorre mettere in moto l'immaginazione. Potresti pensare a come ti senti tu quando nel tuo posto di lavoro ricevi una lamentela da parte di un cliente. Però non basta, perché il tuo posto di lavoro è molto diverso dal posto di lavoro di quell'altra persona, dell'operatore telefonico. Occorre uno sforzo mentale ed emotivo molto più profondo. Dobbiamo immaginare il mondo dell'altro e il paesaggio del suo posto di lavoro. E allora immaginati di essere in questo cubicolo nel quale stai per 8 ore al giorno, con le cuffie in testa, con davanti un computer che ti dice in continuazione che cosa devi fare e che cosa devi rispondere. Intorno a te c'è il vociare attutito di altri 10, forse 50 colleghi che sono nella tua stessa situazione e tu sei lì probabilmente per uno stipendio molto molto basso, magari dopo aver avuto un curriculum di studi e di lavoro che ti permetterebbe di avere una posizione invece molto più soddisfacente, e tu devi sempre rispondere in modo sereno e gentile per non rischiare di perdere il posto. Infine immagina di aver appena terminato l'ultima chiamata in cui l'ennesimo cliente arrabbiato ti ha messo davanti il suo problema e tu hai ancora il battito cardiaco accelerato ed ecco che squilla il telefono per un'altra persona, l'ennesima, che si lamenta di un disservizio del servizio online della banca, e quella persona sei tu ovviamente. Sei riuscito a seguirmi, ad immaginare la scena? Penso che la conseguenza di tutto ciò adesso l'avrai capita. Forse se tu riuscissi a presentare il tuo problema in modo sereno e rispettoso, forse lui potrebbe sentirsi sollevato, potrebbe pensare: cavolo, finalmente una persona che mi tratta da persona. Se tu ci riuscissi, credo che oltre all'intima soddisfazione di esserti comportato in modo umano, potresti anche averne dei benefici dal punto di vista della sua risposta, perché forse sentendosi rispettato, capito, potrebbe metterci ancora più impegno per risolvere il tuo problema. Insomma, 2 piccioni con una fava. Quindi la prossima volta che chiamerai un servizio clienti, prova a mantenere viva la tua empatia, prova ad immaginare come lui può sentirsi nel momento in cui riceve la tua chiamata. Comportarsi da esseri umani in modo rispettoso è sempre una vittoria per te, una vittoria per l'altro, una vittoria per tutti. Lascia un mi piace, condividi questo video e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video.